non mi interessa. Dark Wayne, sono fuori e ti interessa. Hai preso 5 kg, non mi interessa. Guerre tra falliti, non mi interessa. Come hai scopato quella, non mi interessa. Hai la roba più buona, non mi interessa. Non vendere in zona che per qualcuno interessa. Ci prendiamo tutto con gli interessi. Non mi interessa, non me ne frega. Non voglio sapere niente della tua vita. Non mi interessa, frate, no, non mi stressare. Non me ne frega, frate, ho altro a cui pensare. Non mi interessa che fai questo e quello. Tu farai la tua merda, ma la mia è meglio. Con lo squad, tutti i giorni. Con lo squad, tutti i giorni.